Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno, sono le 11.09, abbiamo Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Potrei dire, per iniziare la puntata di oggi, sbagliando si impara. Noi ne siamo convinti. Siamo partiti la scorsa settimana, venerdì scorso, da una debolezza, da una difficoltà, da un errore che ci ha confessato il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che tutti i venerdì è qui in studio con me. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Ravveduto? Corretto? Ma fino a un certo punto, fino a un certo punto. Poi sentiamo cosa ne dirà il nostro specialista. Allora, noi però oggi non parleremo solo degli errori che facciamo a tavola, ma anche di quelli che facciamo praticando attività sportiva. Forse, dico io, nel goffo tentativo di rimediare agli effetti di una dieta non equilibrata. D'altronde, dottor Confalonieri, per tenersi in forma bisogna agire sui due fronti: introdurre calorie e bruciarle, no? Mangiare e muoversi. Diciamo di sì, se si introduce una quantità di calorie eccessive è necessario bruciarle. E d'altra parte fare sport serve non soltanto a perdere peso, ma anche a mantenere un benessere globale più elevato e maggiore. Quindi oggi ce n'è davvero per tutti i gusti. 800 24 00 24. Mi avete già scritto su Facebook, a me mi fa sempre un'emozione, non so come mai, perché per me è una cosa abbastanza nuova, e poi ve le leggerò. E anche Massimo da Como mi ha già scritto all'inizio della puntata: buongiorno Nicoletta, il mio sbaglio è l'inattività per 10 anni. Oggi 36enne, iperteso da sempre, sovrappeso 10 kg, però mi dice sono pasticcere e questo me lo rende ancora più interessante. Ho iniziato a fare palestra 5 giorni a settimana per 60-80 minuti per volta. Basterà, si chiede il nostro Massimo, per recuperare una forma decente per la prossima stagione sciistica? Suggerimenti? 60-80 minuti per volta, 5 giorni alla settimana, però sì, fa il pasticcere. Diciamo che qui si rischia di unire un errore ad un altro errore. Indubbiamente 10 anni di inattività hanno comportato dei problemi, l'ipertensione e il sovrappeso. Adesso però si rischia di esagerare. Direi che 5 giorni a settimana, 60-80 minuti sono davvero troppi, rischiano di creare dei danni. Quindi consiglierei al nostro amico di limitarsi a 3-4 volte la settimana di palestra. Con? E gradualità. Non l'avevamo ancora detto nel nuovo ciclo di trasmissioni. E soprattutto di alternare l'attività con i pesi ad attività di tipo aerobico che facilitano la perdita di peso. E mi aggancio proprio per lanciare la canonica domanda. Abbiamo già detto settimana scorsa, oggi vorremmo aiutarvi a superare i vostri errori, a correggere i vostri errori. Sbagliate qualcosa nell'alimentazione, sbagliate qualcosa nell'esercizio fisico, ne siete consapevoli ma non sapete come venirne fuori. Noi siamo qui per cercare di darvi una nuova chiave per venirne appunto fuori. Dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io aspettavo sì, comunque le confessioni. Ma di infatti io volevo dire questo. Innanzitutto ricordo ai nostri amici da casa che il dottor Speciani è uno specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, e che proprio venerdì scorso ha cercato così di reimpostare la colazione al dottor Confalonieri, che, se lei ha notato, dottor Speciani, ha fatto finta di nulla, ha iniziato a dare consigli agli altri, a fare la domanda di rito. E allora, sta colazione l'ha fatta o no? Io non vedo nessun cambiamento fisico. Posso dire così? Sì, una settimana è troppo poco. No, perché è sempre perfetto, nel senso che non si è sciupato. Ecco. Diciamo che il mio errore... Perché ride lei? Il mio errore era evitare, ridurre la colazione al minimo indispensabile, quindi spesso soltanto un caffè con un po' di latte e al limite un panino con un po' di affettato. Ho cercato di correggerla introducendo... E giù di sale. Ho cercato di correggerla introducendo la frutta, ma ho fatto molta fatica. Sono riuscito soltanto 3 volte a limitarmi a un succo di frutta, la frutta come tale no. In compenso, siccome ero molto stressato, i panini col prosciutto crudo sono diventati 2. quindi ho aumentato l'apporto calorico globale, confesso la mia debolezza e mi rimetto nelle mani del dottor Speciani. Dottore, cosa facciamo? Ah, intanto se ha usato del pane integrale, già in realtà è un errore che non è un errore, nel senso che noi diamo proprio su questo aspetto della gradualità, quando le persone arrivano a chiedere consigli e suggerimenti, diciamo che la prima colazione deve essere saziante. Allora, se il confaloniere ha fame al mattino, sono ben contento. Pensiamo che c'è una bellissima ricerca, questa è abbastanza recente, che proprio dice che quanto più è calorica la prima colazione fatta entro un'ora dal risveglio, e tanto meno è calorica la somma della giornata. Quindi io sono ben contento che le persone, se hanno fame da mangiarsi due panini, però integrali, magari con del prosciutto di qualità, a quel punto possono mangiarne due, tre, quello che serve, perché poi gradualmente il corpo, che si sente saziato, risponde in maniera, come dire, congrua, no? E quindi riduce complessivamente. Sappiamo, questo ce lo dice anche lo stesso Confalonieri, che l'attività del mattino, cioè l'azione del mattino, è assolutamente valida dal punto di vista metabolico e consente molto più dispendio energetico che non il fatto di mangiare, che poi quello è uno dei miei errori, se mi capita mentre scrivo di notte, in realtà magari mi mangio un pezzettino di cioccolato, ecco, quello è l'errore vero, perché lì c'è l'insulina elevata, ci sono degli indicatori differenti, mentre un po' di cioccolato mischiato al panino di Confalonieri al mattino non è neanche un errore. Quindi anche una questione, dottor Speciani, di orario. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Ma io non riesco a capire, si sta arrivando sui farmaci a capire che c'è un'importanza nel dare, che so, il cortisone ad esempio ha ci sono addirittura delle forme cronodosate, si dice, per cui dai un certo tipo di dosaggio alle 8 del mattino, un certo tipo all'1 del pomeriggio, abbiamo tutta una sequenza di ormoni che si muovono nel corso della giornata, e quelli che si occupano dell'ingrassamento e del dimagrimento sono assolutamente legati a questo tipo di orario, e a volte ce le dimentichiamo. E noi ce lo dimentichiamo, ma come dicevano i nostri nonni, il mattino a loro in bocca, e noi alle 11:16 abbiamo un oro al telefono. Ciao Francesca. Buongiorno a tutti. In linea con noi la Francesca, che io saluto così affettuosamente, è in realtà Francesca Dalla Pe, che quest'estate agli Europei di Budapest ci ha fatto sognare, ha vinto l'oro nel sincro con Tania Cagnotto. Francesca. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Senti, tu a colazione fai una bella colazione sostenuta, o invece come molti ragazzi, le ricerche dicono che i ragazzi giovani tendono a fare come il dottor Confalonieri, a saltare la prima colazione? Forse il dottor Confalonieri lo fa proprio per sentirsi giovane, ma questa è un'altra cosa. Senti, Francesca. Beh, io ho imparato a fare colazione negli ultimi anni. Io facevo, quando andavo a scuola, facevo l'errore di bere solo un caffè con un po' di latte. Invece negli ultimi anni mi sono abituata e adesso faccio delle colazioni molto abbondanti. Bevo latte macchiato, e mi faccio mezzo panino col prosciutto e il formaggio e magari una fetta di torta fatta in casa e un succo di frutta. Quindi faccio una buona colazione per riuscire ad arrivare a mezzogiorno con, insomma, lo stomaco ancora abbastanza pieno. E certo. Senti Francesca, ma la colazione te la prepari da sola o c'è qualcuno che te la prepara? No, me la preparo da sola. Brava, brava. Perché il dottor Confalonieri se la prepara da solo o c'è sua moglie che deve correre dietro? No, tutto da solo, tutto da solo. La mattina da solo. Mia moglie è una mangiatrice notturna, fa l'errore di cui parlava prima Speciani e poi dorme un po' di più la mattina. Francesca, invece, soprattutto tra le ragazze, e ne parlavamo anche nella puntata precedente, c'è un po' l'abitudine di dire mangio poco a colazione, pensando di mantenere in questo modo la linea, no? Tutto quello che non si introduce, poi uno dice poi vedrò, e poi si pensa di tenere duro fino all'ora di pranzo, poi invece all'ora di pranzo c'è una fame che si mangerebbero le gambe del tavolo. No, infatti facevo questo errore anch'io, e poi in realtà credo che il modo migliore per mantenere la linea quello di farsi una buona colazione e pranzare normalmente all'ora di pranzo, e poi a cena magari trattenersi un po', cercare di non mangiare i dolci, anzi cercare di mangiarli proprio la mattina, che almeno hai tutta la giornata per riuscire a smaltirli. Senti Francesca, allora, però tu sei un oro, hai un'alimentazione assolutamente perfetta, dici però quando trasgredisci che cosa fai? Qual è il tuo sogno segreto? Beh, mangio di tutto, passo dal dolce al salato, mangio soprattutto cioccolato e pizza. Cioccolato e pizza, questi sono i piatti preferiti da Francesca. Dottor Speciani. Ma Francesca dire, già l'oro, noi gliene diamo un altro. Ha un oro, è meravigliosa, è splendida. Devo dire che il fatto che stia comunicando la prima colazione con un momento ricco e importante è un doppio oro, appunto, confermo. Gliene diamo uno da parte di Radio 24, perché è l'elemento comunicativo e l'attraenza anche per le persone che si rendono conto che le persone che funzionano, che sono forti, che sono brave, che sono belle, in realtà poi scelgono una modalità, degli stili di vita che non sono così antipatici, cioè stia chiedendo di mangiare divertendosi al mattino, e questo le consente poi di fare qualche stravizietto sulla pizza o sul cioccolato senza pagarne degli effetti stravolgenti. Allora io saluto Francesca. Francesca, grazie per essere stata con noi. Pensaci domani a colazione. La colazione della domenica diventa spesso molto più abbondante. Oppure, come mi scrive Elena, quando siamo fuori in albergo, Elena mi scrive, quando sono fuori, per esempio in albergo, faccio delle mega colazioni, ma a casa riesco solo a prendere il caffè. Per me la prima colazione è diventato un rito, e devo, perché io ho una fame, io mi alzo affamata, e oltre a fare il pane in casa con queste macchine che Alberto Pellai mi ha regalato, faccio dei pani magnifici, integrali, con i semi eccetera, io alla sera apparecchio già la tavola per la colazione con la tazza, il sottopiatto, tutto, no, tutte le cose, le occorrenti. Poi mia mamma mi fa le marmellate a casa. Al mattino devo dire che è un invito, perché faccio il caffè, c'è subito il profumo, sveglio, anche il mio cane gradisce, anche se noi non vorremmo, e insomma diventa 5 minuti prima, e devo dire che per me è un momento di grande carica, cioè sedere, fare due chiacchiere, mangiare una cosa buona, mi piace un sacco. Dottor Confalonieri, la inviterò. Grazie dell'invito, e questo probabilmente è il segreto, è quello che spiega anche il fatto che tanti di noi in albergo o al villaggio in vacanza tendono a fare delle prime colazioni molto più abbondanti di quelle che fanno a casa. C'è un problema proprio di tempo, di comodità, di ritmi di vita. Trovare tutto pronto e pronto in modo invitante facilita il fatto poi di fare la prima io. Colazione. Voglio dire, ci sono io. E qualcuno se la crea a casa e qualcun altro la trova soltanto in albergo. Però non, noi non ci fermeremo solo alla prima colazione, perché abbiamo detto chi la prima colazione la trascura o la fa di corsa, alla fine poi la paga, no? Dottor Confalonieri. Certamente, la dottor paga durante il giorno. Dottor Speciani. Assolutamente sì. Dottore. Sì, perché vedevo che voleva parlare. No, indubbiamente il fatto di non fare prima colazione comporta il fatto di mangiare molto di più a pranzo e a cena. Io a questo punto completerei un po' la confessione dei miei errori molto rapidamente. Io credo di mangiare sufficientemente bene a pranzo e a cena, nel senso che a pranzo normalmente prevale la pasta con un po' di prosciutto, un po' di formaggio, un po' di verdura cotta che mi piace. A cena invece di solito accompagno una zuppa a un piatto proteico, uova, pesce, pollo, quant'altro. Però il mio errore è che non so rinunciare al bicchiere o ai due bicchieri di vino sia a pranzo che a cena, e qua mi confesso coram populo, in particolare al dottor Speciani, per chiedere un aiuto, un consiglio, un trucchetto, cosa fare. Dottor Speciani, assolutamente. Ci intanto piace questo dottor Confalonieri che, sì, che dice predico bene, ma ve lo confesso, razzolo malino. Ma intanto il primo suggerimento è che bisogna portarlo in vacanza in alberghi piacevoli, così si sveglia al mattino e fa sicuramente una prima colazione ottima. E secondo, e questo lo dico perché nel mio passato, voglio dire, ho fatto l'ufficiale alpino, quindi dico che conosco l'arma e non medico, quindi andavo in giro per le montagne, e la montagna è comunque una delle mie passioni, e quindi si dice usualmente che il vino faccia parte delle tradizioni alpine. Sì. Ho imparato, pur conoscendolo, pur apprezzandolo, pur valutando gli aspetti estremamente positivi, contenuto in resveratrolo, antiossidanti eccetera, però ad esempio ho imparato a gestirlo nella mia vita, perché ho una intolleranza alimentare sui lieviti solamente in due o tre serate nel corso della settimana. Questo mi consente, come dire, di gustarlo, di poterlo apprezzare, di offrirlo senza patirne poi un effetto di sovraccarico. Che è un suggerimento che posso ribattere tranquillamente al collega dall'altra parte. Allora qua dottore, prende nota? Sì, cerchiamo di creare comunque sempre un minimo di evento, anche essendo soltanto in due, magari soltanto in pochi, intorno al fatto di gustare la bottiglia di vino. In questo modo non diventa più un'abitudine quotidiana, ma diventa qualcosa di particolare. Vediamo di cambiare in questo senso. Scusate, Peppe su Facebook mi scrive: acqua durante i pasti, sì o no? Dottor Speciani, sì o no? Tocca un bel tema, quello dell'acqua, perché è fondamentale. Ci sono diverse teorie, gente che dice diluiamo i succhi gastrici e quindi non usiamola. Io faccio parte della risposta: se abbiamo sete, beviamo, nel senso che l'organismo a volte ha bisogno di diluire dei cibi un pochettino diciamo eccessivamente concentrati, e questo è un dato positivo. Io sono favorevole a riconoscere i bisogni che l'organismo esprime se ci ricordiamo di bere durante il giorno, è certo. Una delle cose importanti, tra l'altro questo lo dico anche un po' per tutte le nostre ascoltatrici, spessissimo noi abbiamo i centri nervosi, quelli della fame e della sete, che sono molto vicini, talvolta abbiamo il pensiero di avere fame, in realtà bevendo un sano bicchiere d'acqua la fame scompare, ed è una cosa che può essere suggerita anche durante il giorno. Ecco, chi ha bisogno un altro piccolo trucco, però intanto che noi siamo qui a parlare di cosa mettere nel piatto, cosa non mettere, come dosarlo, l'acqua sì, l'acqua no, il vino, la colazione, c'è chi è all'opera, sta proprio davvero direi con le mani in pasta oppure con i cucchiai tra i fornelli di casa, qua è Essere Benessere, una presenza direi brillante, prima abbiamo avuto un oro, adesso abbiamo una stella che è la stella Michelin, e abbiamo infatti in linea con noi Andrea Ribaldone della fermata di Alessandria. Andrea, ciao! Ciao a tutti. Andrea, tu adesso alle 11.25 uno chef ha già mangiato o mangiate dopo? Allora, noi mangiamo sempre prima. In quasi tutte le cucine si fa così. Mangiamo prima, mangiamo leggero perché abbiamo bisogno di tenere un pochino di fame per poter assaggiare con tranquillità e non avere proprio il disgusto del cibo. Sì. Ma al tempo stesso non troppa, perché altrimenti sarebbe faticoso fare tutto il servizio. Quindi mangiamo prima, ma mangiamo leggero, mangiamo possibilmente sano, in modo da riuscire a fare il servizio in maniera brillante. Senti, ma che profumi ci sono adesso da te? Guarda, io adesso sto guardando la mia pasticcera. Perché si mangia anche con l'immaginazione, con il profumo, con stimolando gli altri sensi. Allora, io adesso sto guardando la mia pasticcera Amal, che sta facendo il pane berbero. È soltanto acqua e farina impastata e poi tirata molto sottile e cotta su una piastra oppure su una padella a fuoco alto. Lei è bravissima perché ce l'ha di tradizione, e quindi mangeremo questo e poi oggi avremo anche una pasta, facciamo anche una pasta con, anche questa è una cosa molto importante a casa, avete sempre l'idea di arrivare e non avere tempo per fare nulla, il sugo non mi verrà perché ci vanno ore di cottura, invece bastano delle cotture molto molto veloci, usate la roba fresca che trovate nel frigo. Oggi noi abbiamo un po' di carciofi e dei gamberi che abbiamo avanzato dalle preparazioni. Quindi facciamo un sugo immediato, olio, pochissimo aglio, subito i carciofi puliti, senza particolari trattamenti, quindi a crudo, puliti e crudo. Saltiamo qualche minuto, aggiungiamo i gamberi, cottura brevissima per evitare che diventino troppo asciutti, cuoci la pasta e metti tutto insieme. Molto semplice e penso sano. Il dottor Confalonieri c'ha già una specie di rigolino. No, per favore. Dai. Molto buono. Dottor molto Speciani, buono. Le piace? Anch'io, perfetto. Tra l'altro mi ricordo uno dei piatti più buoni che mi prepara mia moglie, quindi sicuramente bello. Andrea, sai che ci scrive Alessandro da Cassino, mi avete fatto venire fame, non so se questo è, no? Se abbiamo. Va bene Andrea, io ti saluto, ti ringrazio e torneremo a sentirci perché mi piace molto. Grazie mille, ciao, ciao, grazie a tutti. Buona pasta con carciofi e gamberi. Cucciolo, ho cucinato tutta questa roba per te, non mangi. Ehi, che ti prende? Quel coso va mangiato con tutta la pelle. Papà, nel pollo tutte le calorie si trovano nella pelle e nel grasso, perciò lo... Cos'è tutta questa storia di grasso e calorie? Sai che te l'ha messo in testa quella dannata televisione? Ogni volta che l'accendi vedi uno che parla di perdere peso, essere sano, tornare in forma. Vanno tutti in giro da anoressici dicendo che quella è salute. Io so cos'è sano e ti dico anche un'altra cosa. Tanto per cominciare non capisco perché tutti vogliono perdere peso. Non dobbiamo essere per forza della stessa misura, dobbiamo essere diversi. Sai qual è il tuo problema? Non vai in palestra, devi fare esercizi. Guarda me, sono tutto... Tu sei ciccia, io sono... Guardate il mio pulcino, è un piccolo Ercole. Fammi vedere di nuovo quel muscolo. Ercolino. Una volta che fai esercizi il tuo metabolismo accelera e puoi mangiare tutto quello che vuoi. Dai, affogati di roba, vai, tranquillo. È una bestia. Studi recenti dimostrano che alcune persone sono geneticamente predisposte ad aumentare di peso. Forse in un futuro non troppo lontano potremmo trovare una cura. Allora, ero qua che me la ridevo col dottor Confalonieri. È un po'... vero? Un po' dice, c'hanno ragione. Sì, un po' hanno ragione, che diventi spesso diventa un eccessivo, tormentone, è un tormentone, tutti uguali, è vero. È un po' di pancetta, tra l'altro la pancetta è un tormentone, ricorre, noi parleremo di pancione, di pancia gonfia proprio lunedì, cercheremo di capire se è ciccia oppure gonfiore. Ma a parte tutto, io voglio salutare Renato da Padova, sentiamo se è un problema di dieta o un problema di moto. Renato, buongiorno, buongiorno. E anche ai suoi ospiti. Niente, io la chiamavo per chiedere un consiglio al dottor Speciani, che leggo i suoi articoli spesso su Correre. E niente, io faccio sport 3 volte 3 ore alla settimana, abbastanza intenso. Pilates, la 3 ore abbastanza intense. Il discorso era questo: io faccio l'autotrasportatore. Il mio problema è, io faccio un'abbondante colazione al mattino, se no non riuscirei ad andare avanti. Il mio problema è che quando guido sarei sempre a mangiare. Quello è il mio problema. Può dipendere dal fatto che dormo poco, che si va dalle 6 alle 7 ore al giorno, o ce ne possono essere altre cause. L'ascolto per radio. Grazie Renato. Dottor Speciani. Ma ecco, una fame delle prime risposte, la fame al volante secondo me è importantissima ed è una cosa anche abbastanza studiata proprio recentemente sull'alimentazione degli sportivi di la lunga distanza o degli sportivi che hanno bisogno di concentrazione, e devo dire che una persona che guidi i camion con le responsabilità che ha bisogno di essere pronto e presente sempre in tutti i modi. Ecco, una delle condizioni che spesso si verifica, questo più studiato dal punto di vista metabolico, è che quando le colazioni sono solo di tipo carboidratico, quindi uno sta mangiando solo, pure abbondante, però pane, miele e biscotti, ad esempio, insieme al tè o al caffè, ecco che questo dà un senso di sazietà, però normalmente porta a consumare rapidamente quegli zuccheri, quindi dà una specie di botta, chiamiamola di iperglicemia, che nel giro di un'ora circa torna verso una ipoglicemia, quindi le persone iniziano ad aver fame. Certo. Una delle cose che giustamente Confalonieri fa, ma l'ha detto e quindi mi complimento con lui, invece è quello di integrare, vuoi con del prosciutto, vuoi con, io suggerisco alla persona che chiamava, con delle noci, con delle nocciole, con delle mandorle, con dei prodotti, con dei latticini, cioè quindi di bilanciare un po' di più proteine e carboidrati, come si fa negli alberghi di cui parlavamo prima, la gente dice ma io mi sveglio, vado un po' dappertutto quindi a mangiare. Facciamo un appello agli albergatori, invitateci, dai, invitateci da voi a fare una colazione, facciamo la giornata della colazione, gli alberghi aperti, gratis, tutti a fare colazione, sarebbe carino, no? Carino, poi se ci invitano ancora siamo più contenti. Ma certo, noi e i nostri amici da casa, perché siamo in tanti, non solamente noi tre. Quindi inserire una quota proteica, che il dottor Speciani diceva va bene il prosciutto, ma anche lei diceva le noci, le nocciole, mandorle, un po' di latte, dicendo, mandorle. Sì. Angelo da Bergamo, lei le mangia le mandorle, le noci, le nocciole come uno scoiattolone a colazione? Penso proprio, no, visto che faccio fornaio, alla 1:30 è anche impossibile mangiare quello che voi dite, a meno che non riuscirei. No, certo. Allora, né tantomeno mi alzerei mezz'ora prima per fare la colazione, perché ogni minuto in più guadagnato di notte è tanta manna che arriva dal cielo. Lo credo. Allora, mi faccio un caffè verso 1:30 dopo che sono sveglio, cioè verso le 3, una spremuta di pompelmo e limone verso le 5, e mi mangio una banana verso le 8 con un pezzo di pane, perché la banana vuole il pane. Sì. Non c'è nulla. La banana vuole il pane. Eh sì, perché è impossibile mangiare la banana senza pane. Avete mai provato? No, io personalmente non amo molto non mi piace tanto la banana. Dottor Confalonieri, lei che è onnivoro? Io metterei il pane con tutto, quindi anche con le banane, sì. Ma direi che forse il problema di Angelo è che ritarda un po' tanto l'alimentazione, gli spuntini. Cioè, il fatto di lavorare con degli spuntini frequenti è molto giusto, è molto intelligente, è molto apprezzabile. Anche le scelte che fa, la frutta piuttosto che la spremuta. Però io anticiperei un po', perché sennò si trova a dover mangiare già compensando crisi di fame o sensazione di fame molto forte, e quindi poi tende a mangiare troppo o abusare soprattutto di pane. Quindi direi perfetti gli spuntini, però se inizia a lavorare verso le 3, già cominciando a lavorare o verso le 2:30 dovrebbe cominciare a mangiare qualcosa. Dottor Speciani, noi dato che oggi vogliamo occuparci anche degli errori che commettiamo nell'attività sportiva, dia il buon esempio e restituisca in un certo senso, no? Il favore al dottor Confalonieri, che l'altra volta si è confessato. Anche lei, dottor Speciani, immagino. Lo sapevo, questa è la legge del taglione. Vero? Vedi? Allora, devo sì, ammetto, spudoratamente, credo già di cogliere quale sia l'errore, mi piace sentirlo dire da una persona esperta come Confalonieri, nel senso che io ho nel mio passato un'attività atletica abbastanza intensa e poi da più avanti nel corso degli anni ho ripreso comunque a correre, ho anche fatto delle maratone, per cui c'è una passione che è la corsa. Devo dire, oggi il tipo di attività, che è un'attività che da un lato mi stimola moltissimo, però mi porta effettivamente a scrivere, a lavorare, a fare dei lavori anche di notte di tipo concettuale, per cui talvolta andando a letto molto tardi, anziché alzarmi come buona abitudine e andare a fare la mia attività fisica, tendo a mantenere per molti periodi un'attività fisica, diciamo tre volte alla settimana almeno di attività, e poi ogni tanto interrompo per 15-20 giorni. Che è un secondo. Io credo che questo possa essere un problema. Confalonieri, cosa dice? Sì, adesso finalmente posso rifarmi un pochettino. Aspettavo da una settimana. Direi che ci sono. Aspettavo da una settimana la vendetta consumata a freddo. No, nel senso che ci sono due errori, direi. Ma due errori. Su, iniziamo. Due. Il primo errore, già l'ha intuito, l'ha esposto il professor Speciani, è quello di non dare continuità all'attività. Diciamo che al di là della gradualità con la quale sono ormai quasi contrassegnato, anche la continuità è un altro principio fondamentale dell'allenamento. Quindi per chi decide e vuole, prova a fare attività fisica in modo serio, è importante farla almeno due volte a settimana. Interrompere per due o tre settimane non significa ricominciare da zero, ma significa perdere una buona parte dei benefici che abbiamo creato. L'altro errore è quello di privilegiare il lavoro notturno. Io sono molto molto favorevole da questo punto di vista a rispettare quelli che sono i ritmi della natura e quindi anche a grandi linee il ritmo luce buio, e quindi anticipare un pochettino il sonno anticipando anche il risveglio. Magari però lui è un gufo, lei è un allodolone, certo, allodolina, volevo dire. Però direi che anche i gufi spesso abusano di questa loro caratteristica, privilegiano il lavoro notturno e poi ne risente un po' tutto l'equilibrio e il benessere globale durante la giornata. Quindi il compito per il professor Speciani? Dormire un po' più presto, svegliarsi un po' prima, scegliendo se fare attività fisica o se fare il lavoro che non ha fatto di notte, insomma. Allora, aspettiamo anche i vostri errori o quelli che vedete nel vostro compagno, nel vostro con cui vi allenate, o vostro marito, o un dubbio che vi tormenta. 800 24 00 24. Adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. E a proposito di strade e autostrade, a proposito delle persone che mangiano guidando, un ascoltatore mi scrive che ha sempre mangiato e lui sceglie tra mezzini al tonno alla guida. Allora noi andiamo da Igor, ci chiama da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver richiamato. Grazie a lei, Igor. La mia domanda era per il dottor Confalonieri e più che per denunciare un errore era per prevenirlo. Ah, ci portiamo avanti, bravissimo. Ci portiamo avanti, brava. Io sto facendo jogging da un anno a questa parte, percorro quotidianamente circa 10 chilometri che ora non mi sono più sufficienti, sento di poter dare molto di più, per cui nelle ultime settimane aggiungo due volte 20 chilometri. Sì, che invidia. La mia domanda era, tenuto conto che il mio obiettivo finale è quello di arrivare a correre una maratona, devo migliorare sui tempi della 10 chilometri oppure devo invece incrementare il chilometraggio? Sì, una domanda molto bella, molto intelligente. In questa fase direi che è ancora conveniente incrementare il chilometraggio con ritmi blandi. Più avanti potrà essere utile alternare questo tipo di allenamenti con allenamenti più brevi a ritmo intenso, che saranno più faticosi sul piano organico, ma saranno meno stressanti per articolazioni, ossa e muscoli. Quindi ha un bel lavoro da fare il nostro. Sì, ma mi sembra ben però avviato. Però mi sembra, e poi vede che continua l'idea, no, di crescere, perché in effetti chi ama lo sport trova nello sport un po' un modo anche non solo per bruciare le calorie, ma per stare bene, per scaricare le tensioni. Si crea quella sorta di rapporto psicologico un po' come quello che noi abbiamo con il cibo. Non mangiamo solamente per tenerci certamente, su. Certamente, diciamo, il rapporto con il cibo e l'alimentazione, così come il rapporto con l'esercizio fisico, hanno una valenza psicologica enorme e contribuiscono al nostro malessere o al nostro benessere. Direi che c'è un rapporto molto stretto. C'è uno dei miei personaggi preferiti, è un avvocato barese, si chiama Guido Guerrieri, che ha un rapporto molto particolare con il sacco della box. Lui è uno, io mi innamorerei di un uomo così, perché ha un senso dell'umorismo, ama la musica, i libri, è un po' strano, però insomma è veramente un avvocato, devo dire, che ci porta, che è difficile, no, poi non seguirlo. Cioè, se uno si innamora e poi segue le sue avventure, per fortuna con le perfezioni provvisorie è tornato, e in linea con noi abbiamo Gianrico Carofiglio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A parlare di Guido Guerrieri mi impapero. Come, cosa devo dire di Gianrico Carofiglio? Magistrato, senatore, scrittore o scrittore, senatore, magistrato? Ma no, dica scrittore, basta. Scrittore, basta. Senta, mi racconta com'è nata l'idea di trasformare un sacco da box in un confidente? Ma guardi, molto spesso mi chiedono se quello che scrivo sia autobiografico, e di regola non lo è. Però rispetto al sacco da box posso fare un'eccezione, perché è quasi del tutto autobiografico. Davvero, io prendo a pugni e anche a calci, per la verità, il sacco da box che ho a casa, e davvero quando, diciamo, sono sicuro che nessuno sia nelle vicinanze per evitare il trattamento sanitario obbligatorio, cioè, ci parlo e insomma scambiamo, diciamo, opinioni sul mondo, e devo dire la sua opinione mi è sempre molto utile. Lui dondola e quindi approva dondolando quello che gli dico. Ma è da tanto o è un'abitudine recente? Beh, io ho cominciato a fare arti marziali quando ero bambino, ho cominciato a fare judo e poi ho cominciato con il karate a 14 anni e sostanzialmente non l'ho mai smesso, quindi insomma questo tipo di allenamenti li faccio da quando ero ragazzo, cioè 3-4 anni fa all'incirca. Senta, ma è vero che lei fin da piccolo voleva scrivere, ha scritto il suo primo racconto a 7 anni e mezzo? Sì, è vero, ho scritto il questa primo è vera. Sì, sì, questa è vera, ho scritto sì, forse 7 anni e mezzo, 8, e poi ho scritto per 3-4 anni con molta prolificità, tant'è che pensavo di essere avviato una rapida carriera. Pensai poi di prendermi una piccola pausa che è durata una 30 anni, perché ho cominciato a scrivere poi davvero a 39, però insomma l'importante è arrivarci. Noi parliamo anche oltre che di attività sportiva, attività fisica, di dieta, ma questo Guido, insomma, di cui io sono un po' innamorata, che rapporto ha con la tavola? Poi insomma, gli piace mangiare, questo mi sembra. Certo, poi gli piace anche bere, forse un pochettino più di quanto non sarebbe consigliabile e consigliato dagli esperti, però a volte è difficile resistere, soprattutto un buon bicchiere di vino rosso, diciamo che cerca di controllarsi come chi se l'è inventato, in generale ce la fa, ma qualche piccolo eccesso a volte capita, tollerabile forse. Ecco, diciamo che proprio nell'ultimo romanzo c'è anche questo ruolo dell'incontrarsi intorno a un bicchiere, intorno a un piatto, in un locale poi tra l'altro particolare, che diventa un elemento fondamentale del libro, del romanzo, della storia, mi sembra. E io in questo mi ritrovo molto, quindi sono contento di poterlo manifestare direttamente all'autore. Sì. Però c'è anche questa attenzione a compensare, che è molto importante, cioè questa abitudine non è quotidiana, può essere frequente ma non è quotidiana, e comunque c'è sempre una certa attenzione a fare la passeggiata, la lunga passeggiata, piuttosto che a questo incontro con il sacco da box, che tra l'altro, questo da un punto di vista medico-sportivo, è in assoluto una delle attività più allenanti che esistano, spesso trascurata, spesso poco considerata, ma estremamente efficace. Quindi la trasgressione che prevede la compensazione alla fine ci dà spesso un equilibrio ottimale. Prima di salutarla, lei proviene da una regione in cui la cucina ha una tradizione molto marcata, una cucina generosa. Il suo piatto preferito, dato che siamo quasi a mezzogiorno? Beh, insomma, no, io ho sempre difficoltà a indicare i miei preferiti come piatti o come, come libri o altre cose, però in questi ultimi tempi mi sta particolarmente piacendo una cosa tipica delle nostre parti, che è il purè di fave con le cicorie, però insomma in una versione meno nota ai più, che include anche dei pezzetti di pane fritto, dei peperoni e addirittura le famose cipolle rosse di Acquaviva, che sono buonissime e non puzzano. Magnifico. Allora, grazie a Gianrico, grazie a caro voi. Figlio, di essere stato con noi. Grazie, me lo tenga bene, ecco, il Guido. Va bene, mi raccomando. Con i guanti. Veramente, lui è veramente un uomo, insomma, da rubare il cuore. Grazie a Gianrico. Grazie anche a lei. Andrea da Aosta, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Assomiglia un po' lei anche un po' a Guido Guerrieri oppure no? Si trova delle... Ma... Sì, per il vino sicuramente. Per il vino sicuramente. Allora, Andrea. A tavola sicuramente. Mm. Allora, la mia domanda riguardava questo. Premetto, sono autodidatta, sono un maratoneta e oltre, nel senso qualche ultra. Qualche sì, ultra ma Andrea, mi parli bene nei buchini del telefono che io non la sento. Sono in macchina. Allora, lei è una... Era questa, sì. Sì, l'obiettivo di questi allenamenti per queste... Sì. Gare lunghe, diciamo, e insegnare il corpo a bruciare anche i grassi, sì. In maniera importante. Quali sono questi grassi da mangiare, dico, per non fare errori, è difficile con i grassi. Certo, dottor Speciani, le affido Andrea. Okay. Ma che bella domanda, dai. C'è veramente una negazione dei grassi che invece sono importantissimi. Già altre volte ci siamo raccontati, ad esempio, che anche una patata, per dire, mangiata da sola, in realtà ha un indice glicemico elevato e quindi può determinare ingrassamento. Una patata magari cotta un po' meno, tenuta al dente con sopra un bel po' di olio crudo, in realtà ha un indice glicemico molto più basso e quindi sazia di più e non ingrassa, no? Quindi dobbiamo guardare i grassi come degli elementi fondamentali del nostro organismo. L'importante è di poterli scegliere buoni. Io devo dire, proprio sull'allenamento delle lunghe distanze, questo anche insieme con mio fratello Luca, lavoriamo su un certo tipo di alimentazione, che poi è l'alimentazione fisiologica naturale, che aiuta a consumare spontaneamente il grasso che uno ha addosso, cioè di non consumare solo zuccheri, e questo quindi significa, torna, se vuole Andrea, ad una indicazione, ad una completezza delle proprie parti alimentari, cioè non serve fare alimentazioni come una volta, ad esempio qualche anno fa, si cercava di fare, che so, per la maratona, i carichi di soli carboidrati piuttosto che altro. Oggi la ricerca scientifica più evoluta insegna che è molto meglio mantenere un equilibrio, quindi sia tra grassi, proteine e carboidrati, in modo da non creare situazioni di sofferenza per l'organismo o di appesantimento. Per cui grassi buoni, l'importante è scegliere grassi buoni, non cuocerli, metterli a crudo sull'organismo, sul piatto, sì. ma sull'organismo. Anche, a volte, anche. Ma questo è un altro pensiero. Dobbiamo, che è meglio alle 11, bravo. Allora, equilibrio, qualità e gradualità. Dottor Speciani, grazie. Dottor Confalonieri, grazie a lei. Noi ci sentiamo con Questa Casa Non È Un Albergo domani, e poi lunedì, e poi su Facebook, e poi, insomma, buona giornata.